si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso, nessuno escluso. Ma quanto c'è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo quei 21 grammi, quanto se ne va con loro? Quanto si guadagna? Quanto si guadagna 21 grammi? Il peso di 5 nichelini uno sull'altro, il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato. Quanto valgono 21 grammi? L'anima peserebbe 21 grammi. Quando si muore si perdono 21 grammi. Quei 21 grammi che ci mancano possono, potrebbero, è una delle tante ipotesi, essere la nostra anima. Sull'anima chiunque può dire quello che vuole, perché in realtà l'anima non si pesa, non si fotografa. Si può soltanto immaginare, si può sperare che ci sia, si può avere una fede concreta e imperitura che ci sia, si può avere una fede vacillante che ci sia, ci si può accorgere a volte che ci sia l'anima, ci si ricorda a volte che c'è l'anima, si può negare radicalmente che esista un'anima, è un'invenzione, una sovrastruttura. Ieri ci siamo intrattenuti sulla più bassa delle possibili espressioni della nostra essenza, le vergognose, detestabili emissioni schifose del nostro corpo. Oggi vorremmo compiere un gesto altrettanto scandaloso e soffermarci sulle più inconfessabili aspirazioni che noi attribuiamo all'esito ultimo delle nostre cellule. Esiste un'anima, esiste una possibilità di collocare noi stessi in qualcosa che non pesiamo, che non misuriamo, di cui non sappiamo esattamente cosa sia. I 21 grammi appartengono alla fantasia di un regista messicano, non a caso, Alejandro González Iñárritu, è la trilogia della morte, in cui come epilogo appunto stabilisce questa teoria dei 21 grammi. Ma possono esserci tante teorie sull'anima. Io ieri ho fatto il mio consueto test con una parte sottile del mio pubblico, decine di persone si sono ricordati di avere un'anima. Chi naturalmente la colloca in una certezza, chi ha il dono di avere una fede religiosa sa che l'anima comunque è il ricettacolo della nostra speranza di sopravvivenza, è il luogo della nostra coscienza. Noi dobbiamo agire sul nostro corpo secondo alcuni canoni, alcune regole, alcuni comandamenti, perché l'anima si preservi comunque e possa continuare a mantenere la nostra coscienza magari in eterno. Per altri la negazione assoluta, l'anima è un'invenzione, se la sono inventate i preti, le teologie, non esiste, viviamo alla giornata, non c'è nulla che ci ricordi l'anima. Però esiste anche una terza possibilità di definire l'anima, che è molto moderna, appartiene comunque a quella che io chiamo una teologia contemporanea, non è fatta da studiosi di divinità, da studiosi di assoluto, da studiosi di metafisica, è fatta da personaggi che in realtà sono quelli che studiano le macchine con cui noi abbiamo contatti quotidiani. Queste macchine che a volte ci ricordano pure che noi possiamo avere un'anima. Non esiste nessuna metafora più calzante dell'essere umano che immaginare il computer. Il computer l'abbiamo immaginato noi uomini, l'abbiamo costruito come copia di noi stessi per avere degli aiuti in alcune operazioni pratiche, ma il computer ci racconta perfettamente. A volte abbiamo il sospetto che la macchina che ci sta accanto abbia un'anima, perché ha una sua autonomia, ha delle bizzarrie che noi non possiamo prevedere, improvvisamente ritorna ad essere nostra amica e non sappiamo mai perché. E quindi questa nostra ansia di attribuire comunque un'anima, qualcosa che va oltre la nostra capacità di percepire con i sensi, l'applichiamo anche alle macchine. Beh, dicevo, questa generazione molto moderna, fatta di informatici, di matematici, di biologi, di fisici, stanno pensando e studiando qualcosa che possono anche chiamare anima, senza compiere un atto di blasfemia nei confronti di chi pensa che l'anima appartenga al dominio del divino, né senza compiere un gesto di dissacrazione del grande pregiudizio laicista che vuole che non si possa parlare altro che di cose concrete. Oggi abbiamo la fortuna di averne uno qui in contatto con noi, in collegamento telefonico. È il professor Douglas Hochstatter. È un grande personaggio di fama mondiale. Buongiorno, professore. Buongiorno. La presento perché non tutti è detto che sappiano chi lei sia, anche se mi rendo conto per la parte più legata ai mezzi informatici del mio pubblico già si è aperto un ampio dibattito ieri sera di persone gioiose del fatto che lei oggi fosse in contatto con noi. Il professor Hochstatter è autore di un libro uscito proprio in questi giorni, Gli anelli dell'io, che tratta appunto del problema dell'anima, ma è molto noto anche per il pubblico italiano per un libro scritto nel 79, Gödel, Escher e Bach, che è un libro molto importante che ha creato un grande dibattito, che crea questa straordinaria contaminazione tra persone. Il professor Hochstatter è un informatico, è un docente di informatica e scienze cognitive al Dipartimento di Psicologia dell'Università del Michigan, ma è stato al MIT, ha insegnato informatica all'Indiana University, è una persona che si dovrebbe occupare di macchine, però occupandosi di macchine improvvisamente ci aiuta a capire, a concepire anche una concezione dell'anima che non è né quella dei teologi né quella di coloro che la negano. Ho detto bestialità grosse, professore? No, perfetto, perfetto, ma devo cominciare adesso o ascoltiamo? No, io sto a aspettare da lei che ci definisca e cerchi di far capire al nostro pubblico, che è un pubblico che non necessariamente si pone la mattina alle 10 il problema dell'anima, quanto il pozzo è un problema sulla nostra coscienza, su ciò che trascende comunque ciò che noi vediamo, tocchiamo ogni giorno. Può essere un'operazione a cui si possono applicare anche degli informatici, anche dei matematici, anzi, soprattutto in questa epoca, degli informatici e dei matematici si pongono il problema dell'anima. Sì. Io mi sono interessato all'anima da molto tempo. È sempre possibile per un informatico, ma io non sono veramente un informatico, sono uno scienziato cognitivista dunque... uso i computer come tutti usano i computer per fare modelli di certe cose e si può usare il computer per modellizzare. Ho fatto una semplificazione, essendo esperto di intelligenza artificiale, per l'utente del computer medio ha davanti una macchina che in sé comincia ad avere dei barlumi di autonomia, quindi individua in quella macchina qualcosa che va oltre il ferro da stiro, la lavatrice, l'automobile, e comincia a questo a destare un po' di inquietudine. È vero che sembra avere un tipo di autonomia, ma ci sono tante cose che hanno autonomia o piccole autonomie. La differenza verrà quando il computer diventerà un po' consapevole di se stesso e quando avrà una autorappresentazione. E a quel punto, quando comincerà a capire qualcosa su se stesso, allora probabilmente potremo cominciare a chiederci se ha un'anima. Ecco, invece noi esseri umani, quando possiamo cominciare a capire che abbiamo un'anima? Solo riflettendo, solo avendo esperienza, solo guardandoci intorno, non è che a priori noi entriamo in contatto con questa dimensione della nostra esistenza che è la consapevolezza di averci un'anima. Quando possiamo cominciare? Possiamo cominciare quando la gente ci dice che c'è una cosa come l'anima, ma penso che non c'entra tanto l'anima, veramente è l'io. Io parlo nel libro dell'io, perché l'anima per me è un sinonimo di io, ma per molta gente non è un sinonimo di io, è qualcosa di più religioso. Dunque preferisco usare la parola io, specialmente qui in Italia, dove probabilmente anima ha un senso più forte che in America, dove è un po' più vago. Ma lei non trova che dà un maggior valore a chi sinceramente, profondamente, dà un senso religioso all'anima, pensare che anche un laico può comunque concepire e immaginare qualcosa di simile, una possibilità di andare oltre la semplice cognizione materiale. Ecco perché uso anch'io la parola anima, è vero, sì, è solo che non voglio, quando lo dico, quando lo uso, non è nel senso religioso, è nel senso dell'io, è nel senso della coscienza. Io direi l'illusione che c'è una luce dentro la mia testa, c'è qualcosa che è accesa nello stesso senso, che c'è qualcosa di magico nella mia testa. Posso chiederle di fare un episodio personale che lei mette nel suo libro, così certo. Cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori, possono chiamarci all'800 24 0024 e darci candidamente, sinceramente, senza problemi, senza pregiudizi, senza timore di dire bestialità, dove loro collocano quello che il professore Hofstadter chiama io, ma che è sinonimo di anima, che voi avete probabilmente legato a una tradizione religiosa, o no, o l'avete legato comunque a qualcosa che si nega. Dov'è comunque la vostra anima? Professore, lei nel suo libro cita un episodio anche doloroso ma illuminante della sua vita, quando, morto suo padre, sua madre in cucina di casa vostra guardava una foto di suo padre e ha avuto alcune sensazioni. Sì, era l'idea che lei ha detto che era solo un pezzo di carta e nient'altro. Io ho detto no, è molto più potente di un semplice pezzo di carta, perché contiene immagini, un'immagine, contiene informazioni che fanno scatenare almeno nel mio cervello, nel suo cervello, emozioni molto forti. E ho fatto l'analogia con le note scritte da Chopin su carta, e che tutta la gente nel mondo che apprezza la musica di Chopin può apprezzare, cioè la carta fa scatenare nei nostri cervelli quelli che amano la musica di Chopin, è una cosa fantastica, e entriamo così grazie ai segni su carta, entriamo così nell'interiorità di una persona fantastica di Chopin, e dunque la carta può contenere magia. Lei dice che centinaia di persone poi l'hanno suonata questa musica, ha dato sensazioni, quindi si apre una catena immensa e creativa da quei segni di carta, come da una foto che sembra non avere nulla. In realtà la foto può avere la sua anima. Ecco, ma siamo noi a definire, a decifrare, a capire questa profonda senso interiore che hanno gli oggetti, le cose che ci circondano, il mondo che ci circonda? E come facciamo a scoprire lentamente che noi abbiamo questo io o quest'anima, che poi è sinonimo? Come scopriamo? Noi ovviamente abbiamo il dono del linguaggio, e allora ogni bambino scopre che ha un io grazie all'esistenza della parola io, tu, e gli adulti o le altre persone che usano quella parola allora cominciano a dare ad ogni piccolo bambino la sensazione di essere qualcosa. Noi non attribuiamo a un pomodoro, per esempio, un io, e non parliamo col pomodoro, e il pomodoro, presumiamo almeno, non fa rappresentazioni. Però parliamo con gli animali. Come? Parliamo con gli animali, ad esempio. Sì, è vero, e crediamo che gli animali creano rappresentazioni, cioè immagini delle cose esteriori. Questa proprietà di percepire e di rappresentare il mondo esterno, che comincia a darci, a dare a qualsiasi oggetto, che sia un animale, una pianta o un computer, la possibilità di avere un'autorappresentazione, un'autopercezione. Quindi mi faccia capire, professore, noi, in ragione della nostra capacità di percepire il mondo esterno, di avere esperienza del mondo circonda, coltiviamo e facciamo crescere la nostra anima, il nostro io, come dice lei. C'è un tipo di ciclo, di cerchio. Noi creiamo, diciamo che assorbiamo dalla nostra cultura tante parole, tanti concetti, e dunque sviluppiamo un'immagine sempre più sofisticata del mondo quando arriviamo all'età, all'adolescenza. Siamo in grado di capire tante cose, abbiamo un'immagine molto molto forte di noi stessi, abbiamo avuto tante esperienze nella vita, abbiamo questa memoria episodica che risale molti anni e questa rappresentazione attraverso il tempo è una cosa che per noi diventa la cosa più reale del mondo. E questa autorappresentazione dunque è quel che chiamiamo l'io o l'anima. Ecco, lei professore cita un episodio, visto che sto cercando di raccontare attraverso episodi, ma in fondo anche tutta la storia sacra è fatta di parabole, di episodi. L'anima nella sua accezione religiosa è raccontata, è immaginata attraverso episodi che la descrivano. Lei racconta una storia apparentemente banale ma molto significativa su quanto poi sono piccoli fenomeni che riescono a darci l'esistenza e la sensazione concreta di qualcosa che in realtà ci sfugge. È il professor Hofstadter che un giorno cerca in una scatola piena di buste qualcosa che gli mancava e si accorge, come la sensazione che in mezzo a queste buste ci sia una semplice pallina, una biglia, che in realtà però non c'è. Di buste raccolgo la scatola a terra per metterle via, ma inizia la guerra. La prendo, la schiaccio, qualcosa si sente, controllo per bene, eppur non c'è niente. La prendo di nuovo, c'è sì il pallino, la testa mi gira, mi sento cretino. Ma arrabbio, le buste ad una per una, mi guardo, mi conto, di biglie nessuna. La prendo di nuovo, con gli orli mi taglio, c'è polvere e basta. Di certo è un abbaglio. La busta 18 oppur 33. Dovunque io guardi, la biglia non c'è. Com'è possibile? La sente dentro lo spessore delle buste che c'è una pallina dentro. La sente, sferca, rotonda, bella solida, di un centimetro di diametro, ma le prende una per una, invece la pallina non c'è. Mia mamma sussurra: sta attento, mio Nello, non voglio ti serva lo strizza cervello. Papà le risponde: tranquilla, amor mio, in mezzo alle buste, lui vuol trovar Dio. Le buste sono sparse su tutta la stanza. Mi siedo arrabbiato. Ne ho proprio abbastanza. Ho perso la biglia, fin anche la testa. Ma forse qualcosa, infine, mi resta? Maggior delle parti è il tutto, sicuro. Pensandoci sopra, al fin congetturo, la biglia mi vuole schernire, perciò la scatola, come ricordo, terrò. Ecco professore, velocemente poi diamo la linea alle informazioni sulla borsa, poi riprendiamo il suo problema. Noi siamo perennemente ossessionati dal fatto che dobbiamo trovare qualcosa di solido. Cosa accadde lei quel giorno che cercava la pallina nelle buste che non c'era? Cosa capì? Ma era ovviamente per me un'analogia, mi sono detto che questo è un ottimo esempio di quel che si chiama un epifenomeno, dove c'è qualcosa che sembra che c'è qualcosa che esiste e invece non esiste, ma è molto utile perché ci dà una possibilità di parlare in termini molto semplici. Io posso descrivere una biglia molto più facilmente che posso descrivere molti strati di carta, molti strati di colla. È molto più semplice dire che c'è una biglia, e se non abbiamo nessuna possibilità di vedere se c'è o non c'è, è più facile dire che c'è. In realtà la biglia non c'era, in realtà era soltanto lo spessore della punta, della chiusura di tutte le buste con la colla, che messe una sopra l'altra danno l'esistenza di una pallina, ma era più facile dire che c'era una pallina. E questo problema lo rimandiamo tra qualche istante. 800 24 00 24, ci siete mai posti quale sia il problema per cui sentite una pallina, non capite bene cosa sia, avete l'impressione che ci sia, ma in realtà è un insieme di componenti che vi dà l'impressione che ci sia quella pallina? E se quella pallina fosse la vostra anima o il vostro io o qualcosa che assomiglia a questo termine? Melog 2.0. Questa è Zora, addestrata per un corpo speciale di eliminazione extramondo. Sai, la bella e la bestia, e tutte e due. Il quarto lavoro in pelle è Pris, modello base di piacere. Un articolo standard per i circoli militari nelle colonie spaziali. Progettati come copie degli esseri umani in ogni senso, fatta eccezione per le emozioni. Ma i progettisti stimarono che dopo qualche anno potevano sviluppare reazioni emotive proprie. Odio, amore, paura, rabbia, invidia. E li dotarono di un dispositivo limitante. Cioè a dire? 4 anni di vita. I lavori in pelle di Blade Runner sono delle macchine in realtà, ma dei simulacri d'uomo. Il loro problema è che gli uomini hanno creati per fare delle operazioni, come oggi il computer che abbiamo davanti nel nostro tavolo d'ufficio, nella nostra postazione di lavoro, ma si sono accorti che per un inspiegabile motivo acquisivano coscienza, quindi acquisivano sentimenti, quindi in qualche maniera cominciavano ad avere cognizione del proprio io o della propria anima, e quindi dovevano essere costituiti con un meccanismo a termine, sennò diventavano uomini a tutti gli effetti. Siamo questa mattina a parlare del tema difficile dell'io, dell'anima, della coscienza, la consapevolezza, con il professor Douglas Hofstadter, che è autore di Anelli nell'io, editrice Mondadori, che insegna informatica e scienze cognitive al Dipartimento di Psicologia dell'Università del Michigan. Professore, siamo vicini, secondo lei, ad avere anche noi dei lavori in pelle che potrebbero avere l'ambizione di reclamare il proprio io? Secondo me no, non siamo vicini, no, è un obiettivo molto lontano ancora per me, ma c'è gente che dice proprio il contrario, c'è molta gente, almeno negli Stati Uniti, che ha letto probabilmente troppa fantascienza e che crede che entro 20 anni avremo macchine che saranno tanto intelligenti e tanto consci quanto noi. Ma in linea astratta, in linea di principio, in realtà il grande mito del golem, cioè dell'uomo che è così spavaldo da voler ricreare comunque se stesso, è qualcosa di ammissibile? In linea teorica può essere ammesso questo principio, oppure esiste un limite, il famoso limite oltre il quale non si potrà mai andare? No, non credo che ci sia un limite. Io sono sempre stato ispirato dall'idea di creare qualcosa che assomigliasse a me stesso, è solo che non credo di raggiungere questo obiettivo. Per me è sempre interessante vedere come falliscono, come non funzionano i modelli informatici, i modelli artificiali del pensiero non funzionano, e per me è divertente vedere tutti i problemi che hanno e a che punto sono deboli. Per me è divertente, ma per altre persone forse è frustrante. Per me è bello, perché fa vedere quanto interessante, quanto potente è una mente umana. È quello che un po' era il dilemma, è sempre stato il dilemma dell'uomo da Faust in poi, che in realtà anche lui cercava di costruirsi l'automa, l'uomo meccanico, e poi alla fine è andato a barattare la sua anima con il più classico e tranquillo dei diavolacci. Beh, anche i modelli in pelle di Blade Runner a un certo punto hanno il privilegio di incontrarsi con il loro creatore, che gli rinfaccia l'impossibilità che loro siano come uomini. Non è una cosa facile incontrare il proprio artefice. E che può fare per te? Può l'artefice ritornare su ciò che ha fatto? Perché? Ti piacerebbe essere modificato? Avevo in mente qualcosa di un po' più radicale. Quale sarebbe il tuo problema? La morte. La morte? Beh, questo temo che sia un po' fuori della mia giurisdizione, tu. Io voglio più vita, padre. Abbiamo i nostri limiti. Produrre un'alterazione nella evoluzione delle strutture di una vita organica è fatale. Un codice genetico non può essere corretto una volta stabilito. Perché no? Perché entro il secondo giorno di incubazione ogni cellula che sia stata sottoposta a mutazioni irreversibili dà luogo a colonie involutive. I topi abbandonano la nave che affonda, e poi la nave affonda. Professore, perché ci poniamo noi occidentali il problema dell'anima soprattutto in relazione al fatto che la nostra vita abbia una fine di fronte al senso della morte? Probabilmente abbiamo inventato questo termine di anima perché abbiamo tutti paura della morte. È un modo di pensare che c'è qualcosa di non fisico che sopravviverà. È un bel pensiero, è un bel sogno, e dunque secondo me È l'idea, ecco l'idea, che vogliamo sopravvivere e allora creiamo l'idea di una cosa che sopravviverà, di un'essenza non fisica. Ma al centro dei suoi anelli dell'io c'è qualcosa di fisico o di non fisico alla fine? Direi che veramente tutto dipende dalla fisica. Io sono cresciuto in una famiglia scientifica, mio padre era fisico e io ho sempre creduto alle leggi della fisica come il centro, il vero principio. Suo padre è stato premio Nobel per la fisica, diciamo. È vero, molto tempo fa. E ho sempre creduto alle leggi della fisica come l'essenza più vera dell'universo, ma ovviamente ci sono le strutture astratte che esistono dappertutto. Per esempio, se io prendo l'idea del sorriso di mia figlia, è una cosa astratta che esiste, possiamo parlare del suo sorriso, esiste il sorriso di mia figlia, è una struttura astratta che ogni tanto appare sul suo viso, ogni tanto sparisce, dunque è una cosa astratta ma che dipende dal suo corpo. Nello stesso senso abbiamo, diciamo, un'anima che è una struttura astratta che può esistere grazie alle particelle o ai neuroni, alle cellule del nostro corpo, è qualcosa che può esistere, è una struttura astratta, e in quel senso è vagamente non fisico, ma veramente dipende dalle leggi della fisica. Ho adesso al telefono un amico che il pubblico di questa trasmissione conosce, lo chiamo ogni tanto, ma io non ho pudore di chiamare le persone che stimo perché trovo siano il complemento necessario in certi momenti. Stefano Morigi, filosofo della scienza. Ciao Stefano. Buongiorno. Grazie che hai seguito questa trasmissione, ma so che è un tema che ti interessa. Però noi stiamo portandoci in un campo che non è definibile, perlomeno nelle categorie classiche delle persone. Di anima ne parlano coloro che si occupano appunto dello spirito, della religione, della teologia. Di corpo in realtà ne parlano appunto i tecnici, gli informatici, i medici, i fisici. Ecco, in questo momento cruciale della nostra esistenza in realtà ci troviamo con delle persone che, pur non negando il primato della materia, del senso fisico, definiscono delle sensazioni, delle dimensioni dell'essere, delle aspirazioni, che l'umanità ha sempre collocato però in un piano metafisico, al di là del fisico. Sì, è un po' la grande sfida della scienza di questo ultimo periodo, cioè riportare nell'ambito dell'intellegibile, cioè del comprensibile, anche su basi fisiche, come diceva Hochstetter, ciò che è sempre stato relegato a ambiti altri, ma in questo non c'è nulla di riduzionistico, nel senso, prima si diceva ci saranno dei limiti per lo sviluppo dei computer, riusciranno a avere un'anima, è un problema molto complesso ed è sempre problematico porre dei limiti, ma la cosa interessante è questa, che in questa tendenza della scienza ad avanzare anche nello studio di computer sempre più complessi, non c'è tanto una sorta di volontà prometeica, no? Di creare il golem, come tu dicevi prima, quanto di comprendere meglio come siamo fatti. Quanto più noi costruiamo delle macchine che sono in grado di riprodurre le nostre funzioni, le nostre facoltà, anche le nostre emozioni e i nostri sentimenti, non stiamo facendo altro che tentando di comprendere meglio noi stessi. Quanto più svilupperemo macchine che ci assomigliano, tanto più saremo in grado di rispondere alla domanda chi siamo noi. Cioè siamo sempre più al centro di un interrogativo che si fa tanto più pregnante quanto più le macchine ci assomiglieranno. Quindi non si vede una minaccia all'uomo, ma un profondo e umile tentativo di capire chi siamo. È bello, probabilmente la prima volta nella storia dell'umanità che l'uomo si costruisce dei simulacri che in realtà non rappresentano qualcosa di trascendente rispetto a lui, ma rappresentano la mappa concreta per poter studiare e capire meglio se stesso. Melog 2.0. Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità, ma non per durare. La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo e tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti, Roy. Guardati, tu sei il figliol prodigo, sei motivo d'orgoglio per me. Ho fatto delle cose discutibili. Anche delle cose straordinarie, Roy. Cose per cui il dio della biomeccanica non ti farebbe entrare in paradiso. Per Philip Dick, il genio creatore di fantascienza a cui è stato ispirato Blade Runner, esisteva un dio della biomeccanica a cui poi, naturalmente, il progetto in pelle, mal riuscito in quanto aspirante ad essere uomo, doveva rendere conto comunque delle sue azioni. Abbiamo parlato di anima, abbiamo parlato di io, abbiamo parlato di percezione, abbiamo parlato di qualcosa di profondo, domande che probabilmente molti si pongono, molti si rifiutano di pongersi, o molti risolvono con semplicissime equazioni. Penserò all'anima quando sarà il momento, oppure io sono a posto con la mia coscienza perché ho una pratica di vita corretta e quindi mi sono salvato l'anima, oppure l'anima non esiste nulla, esiste un vuoto assoluto, esiste soltanto quello che tocco, quello che vedo, e forse questa è la più maledetta delle possibilità di esistenza, ma molti ci si trovano benissimo. Ne ho parlato con il professor Hofstadter, che è autore di Anelli nell'Io, che è un personaggio di fama mondiale, che si occupa comunque, da matematico, da fisico, da teorico e della percezione, di parlare, di capire cosa sia l'anima in una terza possibilità rispetto alle due che ho enunciato. Ma adesso abbiamo al telefono Andrea che ha telefonato dicendo che un ricercatore italiano sostiene aver fotografato l'anima. Dove l'ha letto, Andrea? Sì, sono in linea. Ciao, buongiorno. Sì. Si chiamo dalla provincia di Firenze, da Borgo San Lorenzo. Sì, ho partecipato ad una conferenza di un medico fiorentino, si chiama dottor Fabio Norcia, che lui ha fotografato l'anima, è dovuto andare negli Stati Uniti addirittura per fare questo, perché l'Italia aveva un po' di problemi burocratici, e ha scritto un libro, ho fotografato l'anima proprio, quindi quello precedente invece era il libro dell'anima. E com'è quest'anima fotografata? Lui asserisce che si trova proprio al centro del cervello, che sarebbe la parte più protetta. Non a caso si trova lì, ed è quello che ci fa stare bene o male, diciamo. Però per farlo stare bene o male esistono dei fondamenti. Scusi Andrea, che è un vecchio problema dell'uomo, da quando è stata inventata la fotografia a fine dell'Ottocento, quando alle religioni tradizionali cominciò a sostituirsi qualcosa, un mix di spiritualismo, tra cui anche lo spiritismo. Sia le sorelle Fox che Madame Blavatsky si dilettavano a fotografare ectoplasma, in realtà molte volte, anzi la maggior parte delle volte, anzi diciamo sempre, erano trucchi fotografici, ma l'uomo aveva comunque, vede, da quando ha cominciato a maneggiare delle macchine visionarie che permettevano di allungare e espandere i propri sensi, ha avuto sempre la necessità e il desiderio di fotografare ciò che in realtà era non commensurabile con un'esperienza umana. Sì, soprattutto perché è religioso, perché è religioso, è inconcepibile che esista qualcosa di veramente reale. Comunque mi trova molto d'accordo, perché pur essendo ateo, credo che esista veramente qualcosa nel mio piccolo, che ci possa influire nel tipo di vita, nel modo di vita che facciamo tutti i giorni. Quindi per mantenerci bene esistono tante cose, come l'ambiente, la corretta alimentazione. Sì, poi rientriamo nelle pratiche di sana vita, e naturalmente per chi pensa che la sana vita non sia altro che un momento fondamentale per crearsi una sana sopravvivenza dopo la vita, sono tante le pratiche, tra cui alcune non assolutamente detestabili, che lei ha elencato. Stefano Moriggi, riprendiamo il filo da quello che ci ha detto il nostro ascoltatore, la necessità, dal momento che viviamo nella civiltà della tecnologia, di cominciare a misurare ciò che in realtà l'uomo ha sempre immaginato, ha sempre collocato in un atto di fede. Sì, l'unica cosa che bisognerebbe precisare, che quando noi, intendo io, forse anche tu, certo il professor Hofstadter, parliamo di anima, stiamo parlando, detto in soldoni, della nostra possibilità di avere consapevolezza di noi stessi, se dovessi dirla con una battuta, della possibilità di dire io, che sembra una cosa così semplice, in realtà è una cosa molto complicata. È una cosa molto complicata perché è il prodotto di una evoluzione complessa, anzitutto biologica, che ci ha creato e ci ha formato come strutture molto complesse e articolate dal punto di vista biologico e anche in seconda istanza dal punto di vista culturale, e questo ci ha consentito di avere un pensiero del mondo e dentro questo mondo anche un pensiero di noi stessi. La possibilità di dire io significa la possibilità di percepirsi in quanto persone presenti, in quanto entità pensanti, senzienti. Questo sostanzialmente è l'anima. Tutto che però il nostro rapporto, scusami Stefano, con le macchine rende ancora più complesso questo problema. Adesso abbiamo al telefono un altro amico, Andrea Rossetti. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Sempre un filosofo, ma esperto in informatica giuridica. Nei nostri rapporti mediati da macchine, attraverso le macchine, si crea una nuova circostanza a cui dobbiamo tenere conto. Il fatto che esista un diritto di ciò che noi siamo quando siamo rappresentati da delle macchine. E quindi è ancora più complesso il problema dell'anima. È ancora più complesso, ma perché giustamente, come dice Hofstadter, probabilmente l'io non si situa semplicemente nel nostro cervello, non ha una sua localizzazione fisica. Gli esempi che fa Hofstadter sono proprio interessanti perché ricordano molti di quei mondi virtuali che abbiamo per un po' frequentato, insomma, insieme anche a volte. E quindi diventa veramente complicato a questo punto stabilire quali sono i diritti che una persona, un io ha, proprio perché l'idea di io, secondo almeno Hofstadter, si diffonde. Teniamo conto che proprio sull'idea di io, su queste idee, è fondamentale per la costruzione di del diritto, anche poi il punto di vista a cui io guardo il mondo. No? E qual è il più grosso paradosso oggi che nasce proprio dal fatto che noi siamo rappresentati anche in una realtà che non è più quella nostra corporea da delle macchine? Ma se ho capito bene la tesi del professor Stat, l'idea è che comunque noi siamo sempre noi, insomma, indipendentemente dalla rappresentazione che una macchina ci può dare o di questo trasferimento dell'io, lui parla proprio di telepresenza, insomma. Quindi il fatto che noi siamo presenti fisicamente o telepresenti, tutto sommato non cambia in qualche modo i nostri diritti, perché sono sempre io, insomma. Il mio avatar di Second Life, per ritornare a un argomento molto spesso trattato, sono io. In qualche modo è comunque una manifestazione del mio io. Magari non del mio centrale, perché in qualche modo nebulosamente tutti noi abbiamo l'idea che la nostra anima, la nostra coscienza è qualcosa che si situa nel nostro cervello, però anche quello è un pezzo del mio io, perché io mi definisco in funzione proprio di queste strutture tecnologiche a volte che uso per essere altrove. C'è un caso classico di cui abbiamo spesso parlato, della ragazza che ha citato il gestore di un grande sistema di interconnessione via chat che era stata mandata fuori dal gruppo e lei ha avuto un danno reale, concreto alla sua coscienza. Sì, perché lei sosteneva appunto che in qualche modo il suo essere sociale veniva definito anche dall'essere presente in chat, al chattare con un insieme di persone. L'idea di Hofstadter, non so poi se sia giusto, se sia vero, però è veramente affascinante, perché questa diffusione dell'io risponde a una serie di problemi che secondo me le nuove tecnologie ci pongono quotidianamente, anche nel diritto. È il diritto un po' li ha risolti questi problemi. Ci sono cose, ad esempio, che adesso si possono fare in telepresenza. Ad esempio, i notai possono stipulare determinati tipi di atti a determinate condizioni senza essere fisicamente davanti a colui che firma o a coloro che stipulano un particolare tipo di atto. È davvero interessante questo, perché il diritto in passato si è sempre comportato come se l'io fosse localizzato nella persona, quindi io potessi riconoscere quella persona lì unicamente attraverso il suo aspetto fisico, e invece adesso in questo caso sembra che il diritto sia un po' più avanti rispetto ad alcune persone, invece adesso il diritto appunto riesce a riconoscere la possibilità di fare cose come se fossi presente, in telepresenza appunto. Questa è secondo me l'idea più interessante che ho trovato. Bene Andrea, mi sembra che a questo punto in realtà abbiamo posto ancora nuove problematiche alla problematica. Se per millenni l'uomo si è posto il problema alla propria anima, però in un unico luogo fisico, il proprio corpo, oggi ora cominciarselo a porre anche nelle centinaia di possibili bilocazioni attraverso le macchine che moltiplicano la sua identità. Ringrazio Andrea Rossetti, ringrazio Stefano Morigi, ringrazio soprattutto Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti, che collaborano ogni giorno fattivamente e silenziosamente a questa trasmissione. L'appuntamento è domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.